in scena la rubrica che conclude la settimana. Come ogni venerdì si alza al sipario su Radio Città Fujiko, di rientro dal GR di Radio Popolare. Oggi un triplo appuntamento con due presentazioni di stagione e un'anteprima. Iniziamo da un ritorno per Teatro Testoni Ragazzi. Le storie che ritornano al Teatro Testoni Ragazzi con la curatela della Baracca, stagione teatrale 2024-2025. Stagione densa, importante, novità. Ieri sono stato alla presentazione. Pensate che è la prima che, dopo 2 anni di programmazione in diversi spazi della città, con tutte le attività di ritorno al Teatro Testoni Ragazzi. Lavori di riqualificazione, ne parleremo con le voci protagoniste. Infatti è stato completato il restyling interno, la creazione di 4 nuovi spazi che ho visitato, molto importanti: una sala mostre, un bookshop, un centro di documentazione sul teatro per l'infanzia e l'adolescenza, salette polifunzionali destinati alla lettura e ai giochi. Ritorna un centro fondamentale per il palcoscenico, per il teatro, ma anche per quello che può essere un motivo di incontro con valori aggiunti importanti fra lettura e diffusione culturale. Visioni di futuro, visioni di teatro, Festival Internazionale di Arti Performative e Cultura per la Prima Infanzia tornerà dal 7 al 17 marzo, do qualche anticipazione, mentre per le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 20 anni a maggio ci sarà Atmosferico, il tempo che ho dentro, le 3 giornate dedicate all'adolescenza con spettacoli, laboratori, incontri e confronti. Una nuova stagione, peraltro già iniziata durante la conferenza di presentazione. È un teatro aperto al quartiere, a tutta la città, aspira a diventare la casa di una comunità di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ma anche genitori, ovviamente insegnanti, studenti, unite alla passione per l'arte, il teatro e la cultura. Ho avuto motivo di conversazione con una modalità di insieme. Ringrazio per la disponibilità Carlotta Zini, responsabile della programmazione, Bruno Cappagli, che come ben sapete ne è direttore artistico della Baracca Teatro Testoni Ragazzi, e a questo punto iniziamo a entrare nel dettaglio per quanto riguarda la stagione 2024-2025. Allora, si ricomincia dopo mesi passati da marzo fino a giugno qui al Teatro Testoni, e si ricomincia con un teatro aperto, ancora più aperto, perché oltre alla programmazione ordinaria con gli spettacoli, quello che lanciamo oggi è un progetto che si chiama appunto Teatro Aperto, che porterà all'apertura di questo spazio tutte le settimane, 4 giorni a settimana, e in più il fine settimana per le famiglie, potendo usare tutti quelli che sono gli spazi d'accoglienza del teatro, perché per chi verrà in teatro troverà 4 nuovi spazi. Delle salette in attesa in cui sarà possibile leggere i libri della sala Borsa Ragazzi e prenderli in prestito, giochi, possibilità semplicemente di stare. E poi ci sarà un bookshop in collaborazione invece con Giannino Stoppani, Ameli, nella libreria 7 Volpi. Ci sarà uno spazio mostre che aprirà con una mostra che si chiama Il Teatro È. E poi ci sarà un centro di documentazione, che è un progetto ancora in divenire, che nascerà e crescerà piano piano. Pensavo fosse un manutentore del teatro, e invece è in abito da scena, non da sera, da scena. Bruno Cappagli, buonasera. Buonasera, sono un trattore, okay. Pierre posto frattore, quindi sì, siamo sotto cantiere, insomma, stiamo uscendo dal cantiere. E ci può parlare di questo cantiere? Beh, il cantiere ha lavorato tanto e ha prodotto tanto, infatti siamo pronti per questa stagione con un sacco di nuove produzioni per tutte le fasce di età e un sacco di nuove proposte. C'è stata una sorta di ristrutturazione, di rinnovamento, insomma. Il teatro proprio dello stabile, sì, che è durato tanto, sono stati 2 anni di lavori, dove le barriere architettoniche finalmente sono state abbattute, quindi c'è un facile accesso al teatro, che questa è una cosa che volevamo già da tanto tempo. Ed è tutto nuovo, tutto nuovo, anche noi. Just Di nuovo, bellezza, un centro molto eterogeneo di diffusione culturale, oltre il teatro, la possibilità di avere la fruizione letteraria da prestigiose collaborazioni che già hanno portato all'attenzione dell'ascolto del Breakfast Club con le parole di Carlotta Zini e di Bruno Cappagli, che si è presentato veramente in modalità operaia per quanto riguarda i lavori di rinnovamento e la possibilità di nuovi locali al Teatro Testoni. Ho portato anch'io nell'introduzione alcune rassegne, nella rassegna un po' più avanti, per l'anno 2025. Comunque il claim della stagione 2024-2025, quest'anno una produzione teatrale ricchissima, 81 spettacoli per un totale di 278 repliche, 5 nuove produzioni della baracca, 2 coproduzioni, 38 compagnie nazionali, internazionali e ospiti. C'è anche motivo di osservazione sulla danza, spesso purtroppo messa in secondo piano quando si parla di ricerca artistica, aggiungo purtroppo. Per l'infanzia, da segnalare per aria dal 9 febbraio, età dai 4 agli 8 anni. Teatro di figura e danza c'è Felicia dal 2 febbraio, età dai 6 ai 10 anni. Anche Paloma, ballata controtempo, dal 6 novembre, dagli 8 ai 13 anni, di Factory, compagnia transadriatica proveniente da Lecce. Questi sono alcuni degli appuntamenti, non posso elencare tutta la stagione perché è davvero molto molto corposa. spazi in scena, sale teatrali, sala A, sala B, sala C e poi le novità, le salette non d'attesa ma le salette inattese, con il bookshop, la possibilità anche del prestito, lo spazio mostre, il centro di documentazione al Teatro Testoni con la curatela della baracca, come vi ho detto, le novità, il ritorno in uno spazio che diventa polivalente. Accessibilità, un'attenzione che va oltre gli spazi, servizi di trasporto, scuola, teatro, perché per quanto riguarda il rapporto scuola e nello spazio di teatro sapete bene che la baracca e il Testoni sono davvero molto molto presenti. Gli abbonamenti che possono essere accorpati insieme a un pacchetto di 2, 3, 4 spettacoli o anche ovviamente per gli spettacoli singoli, però trovate tutte le informazioni sul sito Teatro Testoni, che ovviamente è a vostra disposizione per consulenza e per avere informazione più comoda rispetto anche a quella che ogni venerdì in scena vi riporta con un sunto di programmazione per le stagioni, per meglio dire www.testoniragazzi.it, ma ci sarà modo di ripeterlo anche grazie alle nostre voci: Carlotta Zini, responsabile della programmazione, e Bruno Cappagli, direttore artistico. Si potesse dare una parola d'ordine, un filo conduttore, riassumere tutto ciò? Intrecci, che è anche il nome della performance che adesso faremo stasera e nel weekend. Intrecci perché per fare tutto questo abbiamo dovuto intrecciare tante competenze, sia artistiche ma anche edilizie, di arredamento, di pensiero. E quindi sì, siamo operai cittadini, sì. Bene, allora, con la bacchetta magica cosa ci aspettiamo da questa stagione? Questa stagione sarà un po' una sfida, perché il progetto di cui parlavo prima, che è il teatro aperto, per noi è una grossissima sfida, perché aprire le porte non vuol dire che arriveranno le famiglie, le persone. Speriamo di poter collaborare con il quartiere, con le reti, con le associazioni, e speriamo di vedere un teatro pieno, e ci sarà tanto da lavorare. Intrecci questa sera in presentazione, però ufficialmente la partenza? La partenza ufficialmente sabato, dove faremo appunto, perché questa è la festa d'apertura, ma quest'anno appunto per tutti questi nuovi spazi la grande festa continua, che ci sarà una serie di appuntamenti invece dall'1 al 18 di ottobre, per lo più saranno gratuiti, per far conoscere proprio gli spazi nuovi di accoglienza. Modalità di partecipazione, abbonamenti, informazioni online? Quello si trova tutto naturalmente sul nostro sito. Per gli spettacoli di questo fine settimana è possibile acquistare il biglietto andando sul nostro sito, e poi per le attività di cui parlavo prima invece sarà possibile prenotarle su Eventbrite, quindi troverete comunque tutte le informazioni sul nostro sito internet. Io vi ringrazio tantissimo e vi auguro una buona stagione e una buona serata. Grazie. Grazie. E augurare una buona serata alle 8:01 minuto di questo venerdì 27 settembre mi sembra un pochettino fuori luogo, ma la presentazione si è tenuta ieri sera, quindi insomma in seguito poi la rappresentazione di Intrecci, che sarà anche nel weekend, come ha anticipato Bruno Cappagli. Perdonate questa sincronia nei saluti. Oh, let me go. Go my way. Right or wrong. info@testoniragazzi.it. E aggiungo questa particolarità anche che dall'1 al 18 ottobre vi è la possibilità di visitare, di possibilità di presentazione dal vivo di questi nuovi spazi al Teatro Testoni a Bologna. Ringrazio Bruno Cappagli, direttore artistico, e Carlotta Zini, responsabile della programmazione, per questa anticipazione con Radio Città Fujiko Breakfast Club in scena del programma 2024-2025. In scena ritorna dopo la pubblicità, quindi vi invito all'ascolto dei 103.1 per continuare questo rotocalco che vi porta in scena, si alza al sipario sui 103.1.